Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 8 marzo, questa è la puntata numero 21 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana. Oggi, in questa giornata che celebra, vorrebbe celebrare le donne, vorrei dire giusto un paio di parole, non per fare gli auguri alle donne, ma per esprimere un ringraziamento per le lotte, le battaglie di cui sono state protagoniste, non soltanto negli ultimi anni, ma con grande forza anche negli ultimi anni, e che in sintesi si muovono nella direzione della costruzione di un mondo, di una realtà più giuste, più eque e più rispettose, a partire proprio, ma non limitatamente, alle condizioni di vita e alle prospettive di vita delle donne. Per la puntata di oggi andremo a pochi passi da casa nostra, in una di quelle che potremmo definire la periferia dell'impero, o meglio, una delle periferie degli imperi, non dentro al mondo occidentale e neanche a quello dell'est. Andremo in Serbia, dove da novembre sono in corso massicce manifestazioni a seguito del crollo di una tettoia nella stazione ferroviaria della città di Novi Sad, che a novembre ha causato la morte di 15 persone. Proprio da novembre, quindi da oltre 4 mesi, sono in corso imponenti manifestazioni che hanno visto le studentesse e gli studenti serbi alla guida delle mobilitazioni, e che non si sono limitate alla vicenda del crollo della tettoia della stazione di Novi Sad, ma che hanno investito direttamente il mondo politico istituzionale della Serbia, causando anche diversi scossoni proprio sul piano istituzionale. Il governo però sembra abbozzare, o almeno fino a questo momento ha abbozzato, qualche tentativo maldestro di risposta rispetto alle istanze dei manifestanti, ma questo non significa che non si siano registrati eventi di una certa portata, disordini anche in ambito politico istituzionale. Martedì 4 marzo, ad esempio, al Parlamento di Belgrado, della capitale serba, sono stati accesi e lanciati fumogeni, ed è stato utilizzato spray al peperoncino da parte dei membri dell'opposizione serba contro la maggioranza, proprio in segno di protesta e di supporto alle istanze dei manifestanti serbi. Il quadro è molto complesso e aggrovigliato, e oggi cercheremo di fare chiarezza per comprendere che cosa sta accadendo in Serbia, in uno dei quadranti del mondo che purtroppo la nostra informazione, almeno qua in Italia, non ha ritenuto di dover coprire in maniera importante o dandole il giusto spazio. Per cercare di fare chiarezza sull'argomento di questa puntata saremo in collegamento proprio con Belgrado, ma prima di continuare ci prendiamo qualche minuto per una breve e consueta pausa musicale. A tra pochissimo. Disperate Youth, questa era Santi Gold. Bentornate e bentornati. Dunque, come dicevamo durante l'introduzione, sono passati ormai diversi mesi, 4 mesi, dalle proteste che hanno attraversato la Serbia, che sono nate da un moto di indignazione per la morte di 15 persone causata dal crollo di una tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad. La mobilitazione in corso in Serbia ha assunto le caratteristiche di una gigantesca protesta e per discutere di questo tema abbiamo oggi come ospite in collegamento da Belgrado Massimo Moratti, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Massimo. Buongiorno e grazie a voi. Dunque Massimo, abbiamo introdotto i temi, le caratteristiche della mobilitazione in corso. Secondo molti osservatori, quella che sta attraversando la Serbia è la più grande mobilitazione della storia del paese, se non altro della storia recente. Che cosa è successo però in questi mesi e come si è arrivati a questo punto? Si è arrivati a questo punto tramite una sorta di escalation, no? Che è stata contraddistinta sostanzialmente dalle proteste delle persone e dalla mancanza di una risposta adeguata da parte del governo. Abbiamo ricordato il crollo della tettoia della stazione il 1° novembre a Novi Sad, e poi già il 5 novembre ci furono le prime proteste a Novi Sad con incidenti abbastanza seri per quanto riguarda l'edificio del municipio, dove sembra che ci fossero degli infiltrati del partito del governo. Quindi ci sono state tutta una serie di proteste anche a Belgrado nei giorni successivi, con degli attacchi da parte di persone che sono state identificate come vicine al partito di governo. A questa protesta e a questi incidenti faceva appunto seguito la retorica ufficiale, perché la sera stessa del crollo della tettoia il presidente ha detto che voleva la responsabilità sia politica che penale di coloro che erano stati responsabili. Ma queste responsabilità ha faticato a concretizzarsi, perché ci sono sempre stati dei documenti che mancavano alla procura. Il presidente sembrava che volesse trattenere per sé alcuni di questi documenti, e questo non ha fatto nient'altro che appunto far aumentare la rabbia delle persone, e quindi le proteste sono aumentate di intensità. Ecco, era sotto Natale, ma ricordiamo che il 22 di dicembre 100.000 persone scesero in piazza a Belgrado. Pochi giorni dopo, a gennaio, ci furono proteste da 30.000 a 50.000 persone che hanno cominciato a scuotere il paese e che sono culminate nella prova dello sciopero generale del 24 gennaio e nel blocco dell'incrocio del 27 gennaio, a cui il presidente ha risposto invitando le persone a dialogare, a parlare. Ma la sera stessa sono stati degli incidenti parecchio seri che hanno portato alle dimissioni del primo ministro. Il primo ministro Vucevic si è dimesso il 28 gennaio, ma già prima si era dimesso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Vesic, che tra l'altro al momento risulta anche indagato. Tutte queste risposte del governo non sono riusciti a calmare la protesta, che poi ha continuato appunto con un grosso meeting il 15 di febbraio a Kragujevac e un altro meeting il 1° di marzo a Niš, e i prossimi meeting sono appunto in programma oggi stesso, l'8 di marzo e il 15 di marzo a Belgrado. Bene, resterei sulla dimensione politica, o meglio sulle implicazioni che la mobilitazione in corso ha avuto sulla politica istituzionale serba. Alcuni elementi li hai già menzionati tu. Il presidente Vučić, il partito progressista di cui è esponente, e la corruzione della politica e delle istituzioni sembrano ormai costituire il cuore nevralgico delle proteste. Come dicevi, a gennaio il premier, il leader formale del partito progressista Vucevic, si è dimesso, è stato caldamente invitato a dimettersi, mentre Vucic, come ricordavi tu stesso, ha recentemente dichiarato di voler intavolare un dialogo con i manifestanti. Sulla base di queste premesse, di che cosa stiamo parlando e a che cosa siamo di fronte? A una possibile e credibile risposta delle istituzioni governative alle istanze emerse nelle manifestazioni o a ipocriti diversivi che vengono proprio dagli esponenti della politica istituzionale serba? Beh, qualsiasi cosa il governo abbia provato, fino ad ora non sono riusciti a calmare le proteste. E molte di questi, appunto, di queste mosse, come le dimissioni del ministro delle Infrastrutture in primo luogo, che poi tra l'altro risulta anche indagato, ovviamente ha passato anche un paio di notti in prigione, e appunto come le dimissioni del primo ministro, che tra l'altro continua ancora a svolgere le sue funzioni al momento, sono stati percepiti da molte persone proprio come dei gesti puramente cosmetica, senza avere degli impatti effettivi. Insomma, sembrava appunto che al governo il presidente cercasse in qualche modo di sacrificare alcune parti del suo apparato per appunto cercare di placare la folla. È vero, c'è stato l'invito al dialogo la notte stessa del 26. 7 di gennaio da parte del presidente che ha parlato a reti unificate, ma la sera stessa dei militanti del suo partito sono usciti con le mazze da baseball e hanno picchiato degli studenti a Novi Sad e questo appunto ha portato alle dimissioni di Vucevic. Quindi ecco, a parte queste tentative di apertura, dall'altra parte ci sono i vecchi tentativi del governo, no? La vecchia prassi di richiamarsi al nazionalismo, per cui il 15 di febbraio è stato indetto un grande rally del partito dicendo che la Voivodina è Serbia, come se ci fossero dei dubbi in proposito, o appunto si è cercato di dare la colpa alle cosiddette rivoluzioni colorate, questo per voce del suo stesso presidente. E quindi si sta cercando un po' di minacciare una svolta un po' più drammatica e un po' più severa, perché lo stesso presidente, il 1° di marzo, in occasione delle proteste di Nice, ha detto: dopo ogni rivoluzione colorata che fallisce, c'è una controrivoluzione che avrà successo. E questo a molti è sembrato una minaccia, anche perché il presidente ha fatto capire che sta contando e sta vedendo quelli che partecipano alle proteste. Ecco Massimo, tornerei alle proteste in corso. Alcune delle caratteristiche che sono emerse in maniera più manifesta sono il ruolo delle studentesse e degli studenti che hanno iniziato e guidato le mobilitazioni e la natura pacifica in larghissima parte delle mobilitazioni stesse. L'altro elemento che si è imposto con una certa evidenza riguarda le dimensioni delle manifestazioni che hanno coinvolto un numero davvero enorme di partecipanti e hanno, diciamo, previsto anche delle manifestazioni, delle articolazioni della protesta piuttosto singolari. Abbiamo visto marce di massa tra città anche piuttosto lontane tra loro, il blocco di alcune arterie stradali e autostradali per lunghe ore, se non addirittura per intere giornate. In un caso che tu stesso citavi, i manifestanti sono stati attaccati dai sostenitori del presidente Vucic e del Partito Progressista. Parlando delle proteste e di cosa accade all'interno delle mobilitazioni, ci aiuti a capire meglio le modalità della protesta e ancora una volta ti chiedo un accenno e un approfondimento rispetto alla risposta dello Stato e della Polizia, quindi rispetto a come si è articolata la repressione di Stato nei confronti delle proteste. Sì, le proteste non hanno un volto, non c'è un leader politico, non c'è nemmeno un leader studentesco che le gestisce. Gli studenti sono auto-organizzati in plenum che si riuniscono all'interno delle facoltà e appunto questi plenum decidono le prossime azioni da intraprendere e vengono comunicate tramite i social media. Quindi è una sorta di veramente una protesta diffusa che ha assunto queste forme. E a quanto si capisce, questi plenum sono ben organizzati ed hanno anche delle idee alquanto chiare. Le prime proteste, diciamo quelle che avvenivano a novembre, dicembre, anche gennaio, si trattava semplicemente di bloccare gli incroci della città per una quindicina di minuti in memoria delle 15 vittime. E poi, appunto, oltre al sciopero generale di fine gennaio, al blocco degli incroci, sono iniziate proprio le marce, quindi le marce da una città all'altra di studenti che partono a piedi, la prima è stata fatta a Novi Sad, poi a Kragujevac, poi a Niš, e si riuniscono e convergono da più direzioni, da più città nella destinazione E queste marce sono festose perché comunque si vede che gli studenti passano attraverso i villaggi, la gente li saluta, molte persone dicono ho le lacrime agli occhi, non potevo credere che questo stesse avvenendo. E quindi c'è questo aspetto molto positivo che in qualche modo sta un po' risvegliando il paese che era caduto in una sorta di apatia e paura che quando doveva sollevare la voce contro il sistema. È vero, la polizia al momento ha tenuto un ruolo estremamente corretto, direi, perché comunque non ci sono stati tentativi di repressione da parte della polizia, ma anzi, dopo due seri incidenti che sono stati, il presidente ha detto alla polizia che sia presente a tutte le proteste, quindi la polizia blocca le strade e facilita queste proteste. Ci si chiede appunto se possa arrivare un giro di vite, ma c'è tanto anche scetticismo nei confronti della polizia, quanto effettivamente il governo o il sistema possa fare affidamento sulla polizia, perché comunque molti poliziotti vivono in città e non mi sento di escludere che parecchi di loro siano anche in qualche modo d'accordo con chi protesta. Da quel punto di vista della repressione potrebbe essere un'arma abbastanza spuntata quella del presidente al momento. Bene, questa è un'altra caratteristica che rende le mobilitazioni in corso ancora più singolari, no? Un'ultima domanda, ancora pochi minuti. Massimo Vučić è presidente della Repubblica dal 2017 ed è accusato da più fronti di aver abusato dei propri poteri, interpretando in modo originale, a modo suo, quello che dovrebbe essere una carica di natura istituzionale, simbolica e di garanzia. Martedì 4 febbraio, ne parlavamo poco fa, al Parlamento serbo, i membri dell'opposizione hanno utilizzato spray al peperoncino e fumogeni per protestare contro la maggioranza in segno di supporto alle proteste. Queste premesse che cosa ci dicono, Massimo? La politica e la società in Serbia sono più frammentate e polarizzate e lo sono sempre di più rispetto al passato. Ti chiedo un'opinione a te che sei osservatore diretto, un contributo a fare chiarezza su questi aspetti. Vučić è presidente della Repubblica dal 2017, ma l'esploit del suo partito è già avvenuto nel 2012, alle elezioni del 2012, quindi quando cambiarono gli schieramenti in questo senso. E prima Vučić è stato primo ministro. Quindi è un sistema che è già iniziato nel 2012 con appunto una sorta di progressivo inasprimento dei metodi e una permeazione del partito un po' in tutti i gangli della società, per cui si parla spesso della Serbia come di uno stato prigioniero, no? Le istituzioni sono prigioniere degli uomini del partito. E questo in tutti questi anni è servito progressivamente a svuotare dei poteri che aveva la magistratura o altre istituzioni indipendenti come l'istituzione che regola i media, eccetera. Quindi c'è questa penetrazione del partito un po' dappertutto. Chi rimane fuori, appunto, dice loro, cioè c'è questa avversione perché si rende conto che questi qui sono un po' appunto dappertutto. E per questo quindi la polarizzazione aumenta, polarizzazione che anche si situa appunto tra il centro e la periferia, perché ricordiamo che le quattro televisioni che hanno la frequenza nazionale sono le televisioni di Stato e due televisioni private allineate, appiattite direi sulla linea del partito SNS. Quindi non c'è una voce indipendente per l'opposizione che abbia una frequenza nazionale. Quindi ecco appunto c'è questa polarizzazione che appunto si sta accentuando sempre di più. E molte volte, appunto, le persone hanno percepito nelle intenzioni, nelle parole del presidente stesso, la volontà di aumentare questa polarizzazione, cercando di un po' di sminuire l'opposizione, e quindi questo ha portato a quello che è avvenuto in Parlamento il 4 marzo. Diciamocelo, c'era un governo che è dimissionario, quindi quello che si doveva sbrigare era solo poche questioni, c'era appunto una legge importante da approvare, ma oltre a questo il partito voleva far passare altri 60 punti che erano all'ordine del giorno. Quindi, ritornando alla questione di prima, nonostante le dimissioni, nonostante che sia stata una presa di conoscenza politica dei fallimenti, era lo show must go on, no? Quindi business as usual. Quindi la questione andava avanti come se non ci fossero state queste dimissioni. E qui c'è stata appunto la protesta dell'opposizione che ha cercato appunto di bloccare la sessione del Parlamento e con le scene che abbiamo visto tutti, che comunque non sono una novità, già a novembre c'erano state delle scene simili in Parlamento. Insomma, Massimo, sembra di poter dire che lo scenario che ci si presenta davanti per quanto riguarda sia il panorama politico che quello delle mobilitazioni in Serbia è molto fluido, in divenire e ci dirà di più nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Massimo, io intanto ti voglio ringraziare per il tuo contributo e per averci davvero aiutato a fare chiarezza in modo così puntuale. Grazie mille, Massimo Moratti. Prego, a risentirci. Io ringrazio anche Matteo Pioppi per l'aiuto, il contributo organizzativo per questa puntata. Noi per oggi terminiamo qua. L'appuntamento è come sempre al prossimo sabato sulle frequenze di Radio Città Fucico. Ancora gli occhi puntati come